America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Emmanuel Macron defeating Le Pen to become the country's next president. Here in the US, President Trump tweeting out just a short time ago, congratulations to Emmanuel Macron. Vabbè, avete sentito il newscast americano, le televisioni americane dominate ieri, televisioni, giornali, siti internet, dalla vittoria, anzi dal trionfo di Emmanuel Macron alle elezioni francesi, partite congratulazioni da ogni parte, per primo Donald Trump che dice di essere così molto ansioso, vuole incontrare Macron al più presto, vuole lavorare con lui. Anche Hillary Clinton ha mandato un messaggio di congratulazioni dicendo che questa vittoria è importante per l'Europa, per l'America e per il mondo intero, perché sconfigge i populismi. Tutti i giornali hanno dedicato le prime pagine di questa mattina all'esito delle elezioni francesi. Il New York Times ha un op-ed, un editoriale che, devo dire, ha un titolo piuttosto interessante. Ci aspettate a suonare la Marsigliese, cari francesi, perché questo è il tempo dell'inno alla gioia, dell'inno europeo. Macron's rival, far-right candidate Marine Le Pen, came out just a few short moments ago after polls closed to concede the race. Ecco, questa era un'altra battuta. Vi dicevo, i talk show sono stati dominati, ma talk show, ma anche i commenti sui mercati. Avete visto che i mercati in generale, a partire da quelli asiatici, poi quelli europei, insomma, si sono mossi al rialzo, l'euro si è rafforzato sul dollaro e devo dire che davanti ai risultati delle elezioni francesi, dovendo fare un ragionamento politico, ci sono due Americhe. C'è l'America degli alt-right, degli estremisti di destra, che avrebbe voluto una sconfitta di Emmanuel Macron alle elezioni, e l'America tradizionalista, multilaterale, insomma, che include sia democratici che repubblicani, che invece avrebbe considerato una vittoria della Le Pen e la conseguente spaccatura dell'Europa che aveva promesso come una catastrofe strategica per gli Stati Uniti. Ecco, devo dire che nel pieno flusso di fake news si è creata in Europa e anche in Italia, insomma, mi è sembrato, almeno a vedere da quello, a giudicare da quello che leggo, da quello che sento, si è creata l'impressione che il movimento nazionalista populista negli Stati Uniti sia molto molto forte e che le due interpretazioni americane del futuro europeo, la prima, quella populista per la spaccatura, che è così diametralmente opposta rispetto alla tradizione storica del paese, devo dire. Ecco, l'idea è che queste due interpretazioni siano quasi in equilibrio. Ecco, non è così. Non è così perché gli alt-right, l'estrema destra, le loro tendenze populiste estremiste sono in realtà in minoranza, sono una minoranza. La maggioranza dell'America popolare, devo dire l'assoluta maggioranza dell'America istituzionale, è invece per un'Europa forte. C'è da chiedersi naturalmente dove si colloca Donald Trump, perché resta nella memoria, almeno a me viene in mente il tweet che sembrava indicare qualche tempo fa, subito prima delle elezioni, del primo turno elettorale, un appoggio alla Le Pen dopo l'attentato che ci fu in Francia. Come dire, io posso immaginare che emotivamente il presidente possa gradire il messaggio, il piglio della Le Pen rispetto a quello di Macron. Ecco, però attenzione, perché nelle ultime settimane sul piano razionale e della policy il presidente americano è certamente cambiato. Cos'è successo? È successo che ha seguito la linea dei suoi uomini, diciamo quelli con la testa sulle spalle, di Jim Mattis alla difesa, John Kelly alla sicurezza interna. Sentiamo dunque la dichiarazione che secondo me definisce il futuro del rapporto Washington-Europa di Trump. A strong Europe is very, very important to me. Ecco Trump che dice, l'avete sentito, tra l'altro questa è una dichiarazione che ha fatto in una conferenza stampa col Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che l'America vuole un'Europa solida. E perché la vuole? Per proteggere i suoi interessi strategici, oltre che quelli europei. La linea politica a questo punto è definita e non credo che cambierà. Se l'America estremista degli alt-right è minoritaria, i messaggi manipolati via internet hanno in realtà un impatto potente e credo che continueranno. E questi sono messaggi che possono portare danni severi per le democrazie europee più deboli, perché sappiamo che c'è stata un'azione coordinata da alcune frange dell'estrema destra americana per manipolare certa documentazione di Macron. E dunque che succede? Che il problema è serio e devo dire amplifica la consistenza reale e il seguito che c'è poi dietro questi attivisti. Pericolo, guardando in avanti, un pericolo reale, e non è detto che tutti i popoli, parte del calendario scoppio europeo siano in grado, come quello francese, di dare una forte dimostrazione di orgoglio per la loro democrazia e contro i populismi e i nazionalismi, come hanno fatto appunto i francesi. Populismi e nazionalismi, peraltro, da oggi sono improvvisamente invecchiati. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, chiocciola Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, dedichiamola all'Europa. Questi sono i Canned Heat. Dunque, let's work together. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!